non Gianni Emiliano Romagnolo, no, esiste, che però è Emiliano Lancio, Romagnolo. Lancio... No, io sono pugliese. Sei pugliese. Ah, fantastico. Ma sto certo, per andare. Abbiamo, allora, non c'è Imma, ma c'è la quota Manfredonia. Abbiamo, anche oggi abbiamo la quota Manfredonia. Beh, ma allora, cioè, io sto per partire per il Salento, quindi... Ma dove vai? Dove vai? Raccontaci. Io vado a... A Manfredonia. Ma si deve proprio dire. No, non si dice, anche perché... Puoi dire un po' quello che ti pare. I nostri stalker radiofonici. No, si sente chilometri in campo. Comunque vado molto in giù. Molto in giù. Molto giù. Molto in giù. Veramente molto in giù. E, ma quando? E fra una domani. Settimana parto il 4. Cioè sei sempre in vacanza. Cioè. Sono sempre in vacanza. Voi proprio dell'Accademia siete sempre in vacanza. Disse Stefano Pasquini che si dispiaceva. Che tra un po' va. Che tra un po' va. Ma io vado a Mentana. Mentana? Quella del giornalista? Esatto. E dov'è? In che parte dell'Italia è? Vicino a Roma. Ho capito. È uno dei sette colli di Roma, se non sbaglio. Poi vai, dicevi, anche a Tarquinia. Vado a Tarquinia. Dove c'era Tarquinio Superbo. Tarquinio Superbo, esatto. Torniamo un attimo a Gianni Piemontese. Io volevo lanciare prima una call, un open call per i nostri ascoltatori che sono sempre più numerosi. Non so se qualcuno li conta ancora. Sono 333-180-94-94. Perfetto. Allora, io mi domandavo, noi abbiamo un Gianni Piemontese. Esisterà qualcuno che si chiama Emiliano di nome e Romagnolo di cognome? Se c'è un Emiliano Romagnolo, all'ascolto che ci scriva, si palesi e vincerà una patatina classica. Non c'entra nulla, ma io conoscevo un Giuseppe Garibaldi. Ah, perfetto. No, e invece c'entra perché Romagnoli, io sono appena tornata da Talamone, dove Garibaldi ha fatto la sua parte. Quindi cosa scriveteci fatto? Anche se c'è una zia che sta Forlì a questo punto. Esatto. Esattamente. 333 esatto. 180 94 94, mandateci dei vocali cantati perché noi non canteremo mai più. Sono stato sgridato. Da alcuni ascoltatori hanno detto: scusami se te lo dico, ma la puntata scorsa è stata inascoltabile. Veramente? Così era Cinzia Corda, una voce che non si scorda. Esatto. Sicuramente, però mi sono riascoltata, mi sarei nascosta. Ma io ho visto le foto. Suonava abbastanza bene. Vi faccio una confidenza, io conosco quello che vi ha scritto. Ah, vedi? Ah, sì. Okay, sì. E quindi ti sei messo conosco d'accordo. Molto bene, molto ma bene. Sei molto tu? Bene. Sono io. Hai capito. E quindi abbiamo qui uno dei nostri haters. Gianni Piemontese, oltre a detestare le virtù canore di Cinzia Corda, una voce che non si scorda, e altre cose da raccontarci. Ci deve raccontare i suoi future project. Canto anch'io. I future project. Canto anch'io. E quindi c'è un po' di Non stasera. Assolutamente no. Però loro si sono conosciuti cantando, giusto? Sì. Allora, raccontate un attimo. No. Racconta Cinzia. Racconta Cinzia. Ops. No, ma in effetti non è che sei obbligata a raccontare i cazzi tuoi. Cioè. No, vabbè, puoi inventare una storia completamente adesso la nuova. Invento, quindi racconto una storia completamente lontana dalla realtà. Vediamo. C'è un tatuaggio che si chiama Gente. È la canzone, Gente di Mare. È la prima canzone che abbia mai cantato nella mia vita. Stiamo facendo uno spogliarello. Il sogno segreto per di fortuna Pasquini. Tutti in radio, tutti nudi. No, è il sogno di Fuga per Art che ci starà ascoltando. No. Sai, Fuga per Art, ti sei perso un qualcosa stasera. Tornando al canto, facciamo tornando così. Al canto. Volevo fare la ballerina, volevo fare la giornalista, volevo fare di tutto, ma a un certo punto della mia vita, tipo avevo 8-10 anni, non ricordo, mio padre mi mise davanti al cantatù per i locali, quindi aveva tutta l'apparecchiatura per cantare. E la canzone che partì fu Gente di Mare. Io non so cos'è un cantatù per i locali. Me lo sono inventata, non esiste il cantatù per i locali. Aveva l'apparecchiatura per fare il karaoke nei locali. E quindi c'era lo schermo con il testo, quello che anche e c'era Gente di Mare. E la canzone era Gente di Mare. Ma è bellissima! Come ti permetti? Sto per lasciare la radio. Esatto, no, in effetti, dopo essertela tatuata su una spalla. No, la canzone esce furibonda lanciando le cuffie. Anzi. Dropping. Cosa volevo dire? Il pezzo della canzone è Gente lontana che porta nel cuore questo grande fratello blu. Perché il mare mi manca un sacco. Questo grande fratello blu, Gente di Mare, tralala. Mi manca sempre più. Tralala. Tralala. Esatto. ma che mare ti manca? Il Mediterraneo, lo Ionio, quello tra dire e il fare. Quello tra dire e il fare. Che bellezza. Lisa, com'è no, questa cosa? Lisa ci ascolta. Aiutiamo a ripassare i mari italiani. No, il mare che manca è quello tra il dire e il fare. Che in effetti è geniale. Cioè, ci metto un po', perché sono appena arrivata. No, perché tra dire e fare c'è di mezzo il mare, però se te la devo spiegare. Sì, certo. No, no, ridere adesso, dopo. No, certo. Però fa ridere. Però a questo punto ridiamo lo stesso. Perché, comunque, per pietà. Il Mediterraneo del Golfo degli Angeli. Che però rivedrò presto. Ok. E quindi. Allora, il mio mare che ha preso fuoco ieri. A proposito di canzoni, ci sono arrivate un po' di canzoni e volevo farvi sentire come questa. L'uomo lavastoviglie. Esatto, per l'uomo esempio. Della lavastoviglie che mi ha mandato Simona Pinelli, che salutiamo tanto e baciamo e abbracciamo, e la sua band, com'è che si chiama? Lo riesci a leggere perché io non me lo ricordo già più. Amarcord. Ecco, la sua band si chiama Amarcord e incredibilmente, cioè sono dei gran cazzari, detto tra noi, ma incredibilmente sta uscendo un loro disco. No, anche a perché settembre. È scritto l'uomo lavastoviglie, però L senza apostrofo uomo. Vabbè, ma quello sai com'è. Un po' come mio cugino che all'elementare scrisse Duomo con di apostrofo. Che fra l'altro era un chitarrista famosissimo. Era? Come cazzo si chiamava l'uomo? L'uomo in ammollo. Adesso no, ci ma guardiamo. Sono troppo giovani. Sì, ma mentre mandiamo la canzone. Ci guardiamo. No, dicevo che a settembre uscirà il loro primo disco, per cui adesso poi avremo tutti gli Amarcord qui dentro. Incluso Fellini. Quanti sono? 17, con anche Tonino Guerra, il fantasma di Fellini e quello di Tonino Guerra. Fantastico. E ci faranno sentire dal vivo questo L'uomo nella lavastoviglie che io non ho mai sentito, per cui l'ho appena scaricato ed eccolo qua. E la facciamo partire. Facciamola partire, sentiamola. Anche oggi arrivo presto. Che oggi andrò via tardi col mio amico, quello del giornale. Ogni giorno è sempre tutto uguale. Prendi e togli, metti e togli, un cestello, due cestelli, vaffanculo a tutti quanti, al mio cuoco e ristoranti. Gratta, sgrassa, scrosta e lustra, ce ne fosse mai una giusta, anche l'ultimo arrivato, come può fare il soldato? Ma non vedi che faccio per tre, anche per te. Basse, anche oggi metà vanno alle tasse. Sacrosanto, è un mio dovere, ma non posso dare il mio parere. Taglia e sbuccia, lava, fetta, qui c'è sempre una gran fretta. Piatti, pentole, posate, poi ci sono le insalate. Corri e suda con perizia, portami anche l'immondizia. E poi c'è immancabilmente la battutina del cliente. Ma non vedi che faccio per tre, anche per te. Yeah. Macho Man. Con Macho Man? Dai, non c'è dispiaciuta. Ma no, infatti, no. È... È un simpatico ragazzone. No, anche se devo dire che non era la voce della Simona Pinelli, decisamente. Indubbiamente. Oddio, non si può mai sapere, però. Però è abbastanza. E da Pinelli a Spinelli il passo è breve. Il passo è breve. Attenzione. Ah, siamo già al crowd. No, vabbè, quello possiamo dirlo adesso. Lo diciamo adesso. Diciamolo perché adesso, una, perché in effetti una... è importante. 333 180 94 94. Se siete amici di I do help, scriveteci un aiuto immediatamente per salvare il Tigrotto. Abbiamo qui una call da parte di Ivana Spinelli, che artista, è fantastica. Artista fantastica, comparsa qualche volta anche all'interno di dei programmi coccici. Che il gatto Idu è il suo parente più prossimo e peloso, una piccola tigre con cui convivo da più di 10 anni, tra coccole, giochi, attacchi felini e qualche peripezia. Idu, che come ogni divinità ha almeno altri 100 nomi, tipo Cucciolotto, Puzzolone, Mimi, Ayuara, che mi spiegherà Ivana Spinelli che cosa vuol dire, Gatto Bastardo, Gatto Scultore, Baffo Amoroso, Piccolo Buddha, Anaconda, eccetera. Ha già affrontato 2 ricoveri urgenti, ma ora sta vivendo il più urgente di tutti. Ha una patologia non comune che si chiama chilotorace, per cui è ricoverato e attaccato a un drenaggio. Povero Iddu. Povero Iddu. Povero, povero Iddu. E non sappiamo ancora se quando tornerà a casa. Per capire se è curabile ha bisogno di un attacco e un intervento piuttosto impegnativo. Tutto l'iter è molto costoso. Si parla di, tenetevi forte, 8.000 euro. E sti gran cozzi. Sti gran cozzi. E quindi... per il momento abbiamo raccolto 1.350 euro, che insomma è meglio di una vangata di taglio nei maroni. Però, insomma, se avete la possibilità di donare, donate, se avete la possibilità, se non avete la possibilità, ricondividete. Dice Ivana che per donazioni dai 100 euro si avrà in cambio una sua stampa. Questo magari per appassionati e collezionisti è anche un'occasione. 100 euro per un Ivana Spinelli originale non è da cacciare. La donazione è libera oppure ci sono delle quote? No, è libera. Direi che è libera. Io ho donato il minimo possibile, però ho donato 10 euro. Va bene. È il minimo possibile. Il minimo possibile è un centesimo. È un centesimo, certo. Quindi, per cioè, cui sì, no, ho donato 10 euro. Comunque, se qualcuno vuole donare un centesimo, lo prendiamo lo stesso. Esatto, prendiamo anche quello. Perché noi non facciamo distinzioni di classe né di ceto, soprattutto economicamente. Esatto. E lì sarà né di specie. Siamo un programma abbastanza speciale. Working class. Link della puntata domani nel coxospaziale.blogspot.com troverete il link per poter donare su o ricondividere. Non avete la possibilità, se non avete, perché siete dei poveri poveracci come poveracci. Me. No, parlavamo del fatto che dei progetti futuri, no? Sì, parlavamo dei progetti. Io volevo anticipare cosa su, perché questa è l'ultima puntata di Coxo Spaziale prima dell'estate. Sì, chiudiamo tondo. E volevo anticipare cosa succederà a settembre. Perché avremo l'Armenia Panfolclorica, che verrà a raccontarci di una performance che farà a Boa Spazio Arte. Poi avremo Giacomo Mallardo, che con Elisa Zanta racconterà una residenza. Non ho capito dove la fanno, ma non me lo ricordo, me lo hanno detto innumerevoli volte, ma non l'ho memorizzato. Poi avremo Francesco Tampieri e forse anche Tiberio Cattelani. Non ci posso credere, sono non so quanti anni, esatto, siamo, che è che da li prima del COVID tampierando, che perché li stiamo tampierando perché vengano a Corso Spaziale. Mi ha scritto Tampieri in persona chiedendomi di venire il 22 settembre, perché il 25 faranno una cosa al Mambo con Margherita Moscardini, per cui... Sì, che Margherita Moscardini, loro sono Francesco Tampieri è uno dei Margherita Moscardini, artista livornese, o comunque diciamo più o meno di quelle parti, non mi ricordo più il paese esatto, comunque da quelle parti della Toscana, che però si è formata a Bologna. Ah, è stata anche una mia compagna di corso, Margherita Moscardini. Pensavo una tua studentessa, invece no. Anche se è più giovane di me, perché io mi sono attardata e mi sono iscritta tardi all'accademia, però non ci insegniamo ancora, studiavamo più o meno negli stessi anni, e ha fatto un bellissimo percorso, artista interessante, che si è formata poi anche lavorando in studio con, come assistente di Massimo Bartolini. Queste erano le sue prime mosse. Quante ne so. E Francesco Tampieri, sono, è mio, e devo essere. C'è stata un'interruzione, l'hanno sostenuta, hanno proprio fatto un'opera di mecenatismo nei confronti di Margherita Moscardini, e quindi sono tra i suoi primi e non so se principali, ma senz'altro primi collezionisti. Ho capito. Poi ci sarà Roberto Alessi, che ci viene a raccontare una pubblicazione nuova. Roberto Alessi è colui che organizza le mostre alla Casa della Cultura Italo Calvino di Caldelara, e verrà a raccontarci questa pubblicazione che faranno di gran finale per questo festival che si chiama Boom, che fanno a Caldelara. Ecco, poi fermati un attimo perché sei arrivato al 29 settembre, giusto? Mm-hmm. Allora devi inserire anche me, perché appunto, io il 3 ottobre inauguro una mostra a Serendippo. Infatti, al 5C Lab. Volevo parlare dei progetti futuri, perché volevo sapere che cosa combinerai. Allora, cosa combinerò lo vedrà. Lo sapremo solo a ottobre. In realtà è già tutto abbastanza definito. E sono molto contenta di questa joint venture creata da Etta Polico, che ha voluto per la cura di questa mostra Uliana Zanetti. Sei sicura di quello che fai? Io sono sicura di quello che faccio. Uliana, ci siamo già incontrati varie volte. Uh-huh. E ti ha cazziato varie volte. E mi ha già cazziato. No, non è vero, è stata veramente molto incoraggiante e mi ha seguito. Sta perdendo dei colpi. Mi ha semplificato alcuni ragionamenti, è incredibile. Questo è già moltissimo, perché vuol dire semplificare, una come te non è semplice. Non è semplice, esatto. E ci saranno alcuni lavori di due cicli di opere che sono della serie Passanti, che sono questi specchi sottilissimi, e della serie Parjour, che sono invece degli specchi più larghi. Non sono degli specchi più larghi, ma sono delle scritte, degli aforismi poetici che io ricostruisco con dei frammenti di scritte di città, di quello che si trova in giro. No, infatti speriamo nella semplificazione della Uliana, perché non si capisce mai un cazzo di quello che fa. Ma questo è un 3 ottobre, così si deve per forza venire a vedere. Però non ne parlo adesso, ne parlerò il 29 settembre. Il 29 settembre. Okay. Infatti abbiamo il 6 ottobre vuoto. Poi cosa succederà? Una cosa incredibile, cioè arriverà Speciale Dolore in ottobre, racconterà l'uscita del nuovo disco. Ma come speciale? Quel tipo lì che non è mai venuto in radio, che già abbiamo avuto in passato. Lo avremo di nuovo. Lisa e le sue amnesie. Ci voleva Imma. Ci voleva Imma e la quota femminile di Manfredonia. Ormai qua c'è già un parlare in gergo tra co-conduttrici, che io, essendo una co-conduttrice latitante... No, tra l'altro io mi scuso perché non ho capito perché, ma oggi non avevamo la sigla nuova che abbiamo fatto sentire la volta scorsa. Ah, infatti mancava il mio nome. È già andata in onda una volta. L'hai fatta tu. Quella l'ho fatta io. Però ascoltiamo un attimo il... ascoltiamo la sigla. No, non ascoltiamo la sigla. Sigla pubblicità. Ricominciamo. Ascoltiamo un attimo il jingle il jingle lungo che Speciale Dolore ci ha fatto. Ce l'hai? Quello dove non c'è scritto short. Esatto, grande. Vedo che senti qua, che meraviglia. Boxa. Thank you. Molto bella, molto bella. Bellissima. Ah, no, infatti volevo chiedere appunto a Gianni Piemontese cosa ne pensava, cioè sti Gran Coxi, voglio dire, chi è, quale altra trasmissione della meravigliosa Radio Città Fujiko può vantare un jingle così? Ma capito? Noi non possiamo, dovremmo fare una compilation, perché ti ricordi che c'era addirittura anche Riccardo Lolli, che stasera non è venuto, che e non lo bacchettiamo. Salutiamo. Vergogna su di te, non esatto. È possibile questa cosa. Ci aveva composto un bellissimo pezzo per il, cos'era, il cinquecentesimo. È vero, che parlava di noi, buttato. Di tutte infatti, noi. È vero, dove l'abbiamo buttato quello, chissà. Beh, intanto nel cinquecentesimo. No, nella cinquecentesima, naturalmente se andate su Coxo Spaziale, cercate il numero puntata 500, troverete che il sarà? Pezzo. Non di, un anno. Di, no, ah sì, no, più o meno un anno fa è stato, era luglio dell'anno scorso, sì. O forse con anche settembre addirittura, sono venute tutte le co-conduttrici fuorché mia, che era la co-conduttrice che doveva esserci, perché cioè, era la co-conduttrice attuale, no? Invece non è venuta, però è tornata Fedra, che salutiamo e abbracciamo e baciamo, perché comunque è stato bello averla. Cosa volevo che stavi andando avanti con la lista di cosa succedeva, eravamo arrivati al 6 ottobre, poi finita lì, no, poi non succede più niente, poi basta dal 6 ottobre si chiude tutto. Forse prima avremo anche Danilo Montanari, perché ci sarà Books alla fine di settembre, per cui chissà chi e lo alla sa fine di settembre Books pensavo settembre. Per come mai l'hanno posticipato là? Perché Books lo fanno tra una mostra del Mambo e l'altra, e quest'anno la mostra del Mambo è stata finirà a settembre e quella nuova bisogna assolutamente avere, e ha detto che viene, non sappiamo, no, non l'ho neanche invitato, ma va bene. Danilo Montanari, se per caso ci stai ascoltando dalla Romagna, sappi che sei invitato il sempre il 23, come sempre lui, abbiamo le idee chiare, vogliamo come dire magari poche idee ma confuse, giusto nell'ipotesi assolutamente remota che qualcuno ci stia ascoltando, magari vogliamo dire due parole su chi è Danilo Montanari, che cos'è Books, perché stiamo sparando un po' nomi a caso. Hai ragione, Books è una fiera del libro d'artista, dove ci sono appunto questi collezionisti e venditori di libri d'artista che vengono ed espongono i loro libri, e poi ci saranno un po' di incontri, un po' di talk, eccetera, e tutto questo succede nella sala delle ciminiere del Mambo. Sappiamo tra una mostra e l'altra. Tra una mostra e l'altra. Per quindi cui non si sarà quindi 20, se non vado errato, il 27 settembre. Il weekend 26, 27, 28 settembre, per cui 26. il 22 settembre, 28. Se questo è il 2025, sì, confermo che questo calendario è del 2025, ci dovremmo averlo qua, forse con anche te che ci parli della tua mostra e chissà chi altro. Potrebbe essere. Ma invece volevo dire che tutti i giovedì alle 23 su Radio Città Fujiko 103.1 FM, se per caso vi manca Riccardo Lolli, potete ascoltare Uova, Sode e Noci, che c'è è un programma tutto suo? È un programma tutto suo, tutto nudo, che succede da tipo 3 anni. Beh, allora adesso io non lo sapevo neanche. Che pessima ascoltatrice. Infatti, che sono veramente. Questa veramente è merito di essere radiata, che essere radiata dalla radio è anche un po' radiamoti dalla radio. Ok. Ah, ma a me è piaciuta così. Molto questa. Vero? Di essere radiato dalla radio. E secondo me sono le 20:30 e qualcosa me, mi sai, dice che dovremmo ascoltare. Ma posso partire con speciale dolore Coxo Short. E partire da lì. Così vengo a mangiare due patatine. Coxo! Non dire così. Stefano dice fuori onda cose irripetibili. Cose irripetibili. Lasciamole nel fuori onda. Sciacquati la bocca. Tiè. Ecco grazie. Qua. Vai. Bronzeo. Qui si beve vino bianco bronzeo. Bronzeo. C'è l'accento sulla O per bronzeo. Sì, era in offerta alla Pam. Beh, però ha un bel aspetto. Beh, viva la sincerità. Bella faccia. Io. Nel frattempo ci scrive Ivana Spinelli che ringrazia e dice che domattina hanno un appuntamento con la chirurgia e servirà tanta fortuna e good vibes. Good vibes per Idu. Noi te le mandiamo tutte. Te le mandiamo tutte. Bene, siamo giunti alle menzioni, giusto? Siamo giunti alle menzioni, così dicono. Di solito non so. Abbiamo un jingle delle menzioni? Forse. Può essere. Ma Marco Roma stasera? Ah, è vero. L'angolo della menzione. Non mi si apre. Mercoledì 30 luglio, alle ore 18. Questa l'ho letta, mi ha colpito. Vai. Inaugura la mostra 1980 agosto 2025, a cura di Jacopo Cenacchi e Sergio Smerieri. La mostra 1980 agosto 2025 nasce da una serie di coincidenze ravvicinate. Inizia tutto dal fortuito acquisto di Sergio Smerieri di 7 immagini della stazione di Bologna scattate i giorni seguenti la strage del 2 agosto 1980. Altrettanto casuale è l'incontro al Guiglia Photo Festival con il gallerista Jacopo Cenacchi, che in quel periodo ospitava il progetto Un caro amico per la manifestazione Open Tour 2025. L'opera dedicata al bus ATC numero 37, che il giorno dell'attentato, carico di morti e feriti, fece la spola tra la stazione e l'ospedale maggiore, ha ricevuto il premio della Fondazione Carisbo per i collezionisti. Le 7 fotografie inedite in esemplari unici e 37 libretti in tiratura limitata saranno esposti presso Galleria Studio Cenacchi con lo scopo di mostrare al pubblico ciò che il caso ha voluto far riemergere. Tutto questo alla Galleria Studio Cenacchi in via Santo Stefano 63 a Bologna. Il giovedì 31 luglio alle ore 18, Madre Terra, una visita guidata speciale per salutare le mostre William Condon. Paesaggio come misura del corpo e Mia madre supernova, I Will Rise and Go Now, al Museo d'Arte Lercaro di Bologna. Due progetti che attraverso l'arte riflettono sul legame profondo con la memoria, con il paesaggio e con gli altri. La visita si concentrerà sull'esperienza di William Condon nella pianura padana, accompagnata da passi tratti dai suoi diari, un racconto intimo della vita e dello sguardo di uno dei grandi maestri americani. Si proseguirà poi con le opere di Raniero Bittante e Massimiliano Fabbri, un diario visivo e personale che esplora la cura, la malattia, la presenza e l'assenza delle madri colpite da Alzheimer e Parkinson. Al termine, i visitatori saranno invitati a lasciare una pagina di diario, un ricordo o una riflessione ispirata dalle opere. Tutti i contributi, anche in forma anonima, se lo si desidera, saranno raccolti e condivisi sui canali social del museo come saluto finale alle mostre. Questo è al Museo d'Arte Lercaro. Via Riva di Reno. Non c'è l'indirizzo, ma subito appena entrati all'angolo con via Marconi, subito sulla sinistra. Giovedì 31 luglio alle ore 21 all'interno di Zoo Art, Giardino delle Arti, la Fondazione Zucchelli ospita il quinto e ultimo appuntamento della rassegna International Jazz and Art Performing 5.0, 5 incontri artistico-musicali nell'estate 2025. L'ultima serata dal titolo Martini Arrangers Workshop Classic Goes Jazz è dedicata agli arrangiamenti degli studenti di composizione jazz di composizioni classiche visitate in chiave jazzistica e suonate dall'ensemble degli studenti del Dipartimento Jazz diretti da Michele Corcella, ovvero Alberto Bonora, Cosimo Gallone, Valerio Garagnani, Francesco Giacalone, Christian Boutang, Francesco Stella, Giovanni Di Bella, Daniele Marrone, Valentina Tollis e nella stessa serata l'ospite sarà il vincitore del premio Giardina Max Pasini al pianoforte che farà parte della band e porterà all'ascolto del pubblico alcune sue composizioni e suoi arrangiamenti. Tutto questo a Zoo Art, Giardino delle Arti di Fondazione Zucchelli in vicolo Malgrado 3/2 a Bologna. Cinzia, vai pure tu, sai. Domenica 3 agosto, dalle ore 16 alle 17, il Dipartimento Educativo Mambo, Museo Morandi, propone una speciale visita guidata per adulti al Museo Morandi per indagare lo stretto rapporto tra il celebre pittore bolognese e la poesia. Attività gratuita con biglietto d'ingresso al museo, la prenotazione è obbligatoria e si effettua scrivendo all'indirizzo email mamboedu@comune.bologna.it entro le ore 13 di venerdì 1 agosto. Tutto questo al Mambo, in via Dominzoni 14 a Bologna. E ci segnala Stefano che dobbiamo aggiungere il 2 agosto, data che ricordiamo purtroppo anche per altre ragioni, alle ore 18 Martina Pozzobon, I cani non indossano pantaloni, presso Piccola Galleria, in via Marsala 31/D. E vediamo un po', Martina Pozzobon vive e lavora a Bologna, ha frequentato l'Accademia di Belle Arti di Bologna e l'Università Complutense de Madrid, Facoltà de Bellas Artes. Martina Pozzobon porta avanti la sua indagine artistica attraverso la pittura e il disegno, focalizzandosi prevalentemente sulla rappresentazione del corpo umano. Le sue figure, spesso immerse in ambienti surreali o inusuali, instaurano un dialogo con elementi che sfuggono alla logica quotidiana. Il suo universo visivo, più vicino al sogno, all'interiorità che alla fantasia pura, ha una forte connotazione psicologica e onirica. Ha partecipato a diverse mostre collettive, tra cui Avvicinare le distanze a cure di Davide Ferri e Cecilia Canziani, presso Galleria P 420 Bologna, Saloon Palermo 3 a cura di Antonio Grulli e Francesco De Grandi a Rizzuto Gallery Palermo. Tutto questo alle 18 in via Marsala 31/D. Mi raccomando, andate. Appena chiude l'esposizione di Imma, quella che si chiama, dillo tu, perché mo te la racconto. Chiude lei e poi c'è Martina Pozzobon. Esatto, questa mostra curata da Elisa Zanta, esatto, che salutiamo, che è stata con noi due puntate fa. È tornato un po' di volte. Sì, l'ultima volta è stata appunto con Imma. Mm-hmm. Comunque era la Piccola Galleria via Marsala 31/D a Bologna. Ma pensa a te. Finite le menzioni. Ma l'abbiamo detto. Ah, ok. Però lo ripetiamo. No, l'avevamo detto, no, è che mancava il tuk-tuk. Vedi. Ho capito. Bene. E dunque è uscito un altro disco, è un singolo di adesso Lisa mi aiuta perché se sei un po' più preciso. Mars X. Che sarebbe adesso non me lo ricordo più. Che era il Mars X era il cantante dei Tribal Noise. Ma pensa, io intanto che si chiama, la faccio partire. Falla partire intanto. Aspetta, mi è arrivato. Sei distratto? Mi sono distratto. Ti è arrivato un messaggio? No, non mi dice niente. Allora intanto ascoltiamo. Vai. Running short, an empty stinking road. Direi che questo Marsa è finita. Ha un bel sound. Marzio Manni, ecco, non mi veniva il nome perché lui è il cantante dei. Tornalo a dire Marzio. Marzio Manni. Marzio. Marzio. Io sono bolognese, lui anche. Marzio. Ed è il è stato il cantante dei Trouble Noise, oltre che al cantante. Era il cantante anche dei Loveless, che era un gran gruppo che avevo conosciuto in Francia. Pensa un po'. E allora ringraziamo Riccardo Serapica, che salutiamo, che ci ha detto che era uscito questo nuovo singolo. Pensa un po'. È parente? Sì, certo, è il nipote di Claudio Serapica. Ma non vogliamo raccontare i casi. No, però in radio. Oggi pensavamo di fare una puntata di 2 ore, però sono le 20:43 e abbiamo già non avevo più niente da dire. Esatto. E soprattutto io non ho ancora cenato, perché mi sono catapultata qui. No, vabbè, adesso l'abbiamo cenato alle 5 per me. Anche la mia coinquilina. Però io non sono costretta a rimanere qui fino alla fine della seconda ora. Tu sei costretta. Sappiamo che io ho avuto come scoop che Panta 80 non ci sono, ho detto l'ultima puntata la facciamo rubiamo l'ora di Panta 80, poi però secondo me andiamo a mangiare. Allora io devo andare a mangiare a casa mia, come voi sapete. Però perché Francesco ti sta cucinando naturalmente. Non mi sta cucinando, però a una certa ora. Ma questo ritratto che hai fatto chi sarebbe? Ma non lo so, vediamo. Indovinatelo. Cioè è Lisa. Io non lo vedo. C'è una vaga. Il colore degli occhi. Si vede dal colore degli occhi. C'è una vaga somiglianza. Mi sono dimenticata gli occhiali. Perché li rovina. Rovino tutto se metto gli occhiali. Io vi volevo complimentare. Cioè, comunque, Lisa è molto meglio di te. Non ci voleva moltissimo. Devo ammettere che non è un record. Non montarti la testa, Lisa. No, ma per carità, guarda, lungi da me. La mia psicologa non sarebbe d'accordo. Io non vedevo l'ora di essere qua e ricominciare a fare il cazzaro dalla parte degli ospiti. Ma poi, guarda che se non ti controlli, poi a un certo punto la porta la chiudo regia, quindi ci sta benissimo, chiudo dentro. Tu ti chiudi dentro a chiave. Puoi anche staccare tutti noi e poi fai una solo show. In cui non saprei assolutamente che cavolo dire, però metterei un sacco di musica. Una 24 ore, 36, 72 ore così. Stavo pensando, ma siamo sicuri che i cani non indossano i pantaloni? Dipende. E se li indossano, come li indossano? Come li indossano? Era molto bella la immagine che c'è nel volantino. Sì. Ci sono tutte queste facce di cani. Peccato che non sono facce di gatti, sennò si poteva fare una joint venture con Iddu. Facce di cani che stanno formano dei pantaloni a strisce delle gambe. Se siete curiosi di vedere di che immagine stiamo parlando, andate nella pagina di Piccola Galleria. Esatto, Piccola_Galleria su Instagram e trovate dei cani che non indossano i pantaloni. Seguite pantaloni che indossano dei cani. Comunque 333 180 94 94, se volete farci ascoltare il suono del vostro cane lo potete fare mandando un vocale su WhatsApp. Non è arrivato assolutamente niente, invece parliamo di Marco Roma, perché è un po' che non sentiamo la voce di Marco Roma. Vediamo se parte, perché ogni volta ci vuole un qualche rituale magico per far partire, adesso io rimango seduto da questa parte e vediamo se partirà Marco Roma. Assolutamente. Assolutamente no. Ah, vedi? Assolutamente. Adesso no. Allora mi tolgo la cuffia e arrivo dalle tue parti. Dobbiamo andare. Avevo appena detto questa cosa, si è emozionata e non ha trovato Marco Roma. E intanto noi magari continuiamo. Sì, sì, io guardavo Martina Pozzabon che. Perché sotto, gli ascoltatori nostri, buongiorno, non si sono fermati. Eccolo. Ho creato una stella, l'ho disegnata sopra il cielo con la penna stilografica. Ci ho messo un po' di tempo e la speranza è viva. Da Marco Roma, buongiorno. Beh, ma questo è un gran cantautore. Questo è il, io credo che sia il messaggio più impegnato che Marco Roma abbia mandato. Io l'ho mancato perché tempo. Si sentiva solo nelle cuffie, non si sentiva nelle ci ha mandato un case, messaggio no? piuttosto impegnato. Possiamo sentirlo di nuovo? Sì, dai, ma volentieri, un'altra volta, dai, che ci è piaciuto. Buongiorno. Ho creato una stella, l'ho disegnata sopra il cielo con la penna stilografica. Ci ho messo un po' di tempo e la speranza è viva. Da Marco Roma, buongiorno. Hai capito? Capito. Anche cambiato la foto profilo. Addirittura un messaggio di speranza. Dobbiamo fare degli screenshot a tutte queste foto profilo di Marco non Roma. Non credo sia legale, sai. Ah, ok. No, vabbè, non ho detto che li pubblichiamo. Ho detto che facciamo delle. Ah, no, se non pubblichiamo si può fare, certo. Sì, no, certo. Ma non. Vagamente inquietante farlo, però non importa. Aspetta, possiamo dare una descrizione? Ma è semplicemente è bello, un alto volto e con una voce sensuale. Hai capito? E con una capacità di scrittura e di creare immagini attraverso le parole. Notevolissima. Notevolissimo. Salutiamo Marco Roma. Salutiamo Marco che Roma. Che non ci abbandona mai. Ascoltiamo un altro pezzo, cosa dici? Facciamo cosa vuoi sentire? Non lo so, quello che vuoi tu. Uia. Uia. Grande responsabilità. Tipo questo. Hey boy, let me go. Hey girl, here we go. Hey boy, let me go. Hey girl, here we go. I dated boys, I dated girls, and in the end it's all the same. They eat my soul, suck my blood, and inject themselves in some of it. I dated girls, I dated boys, I swim both ways to run away. It's all possessive, I'm undressing for the doctor saying welcome to my some pills off of the shelf. They make me happy, but I feel like it's not real. I miss my moods and babes and dudes, and I just wanna feel. Welcome to my heart. Abbiamo ascoltato, esatto, dei Little Green. Sì, no, è una Little Green. Una, della. Sì, è una della piccola verde. Pressoché sconosciuta australiana che non so bene come io e Mia abbiamo scoperto ci è piaciuta e sta andando bene. E questo è uno dei suoi ultimi singoli. No, stavo pensando invece, vabbè, tu a ottobre avrai la mostra al 5C Lab. Al 5C Lab. Ma invece i progetti futuri di Cinzia Corda quali sono? Ecco, sentiamo. Beh, avere il mio palco scenico in Piazza Maggiore. Ah, palco, okay. Palco scenico per cantare in Piazza Maggiore. Pensavo per cani. Mm. Cosa? Per cani. Un palcoscenico per cani. Cantare. Ah, ok. Per cantare. I progetti futuri di Gianni Piemontese quali sono? Ma se lei mi dice il giorno che canterà, io sto a casa, quindi non. Ah, vedi? Ma tu quindi hai progetto di stare a casa? Sì, il tuo progetto sì. È quello. Beh, mi sembra un ottimo progetto. È andata così. Vabbè. Sto scherzando. Anche perché se Cinzia Corda canta in Piazza Maggiore. Io per esempio se per caso è di lunedì faccio come ho fatto con Roberta Giallo, chiudo corso spaziale e vado a sentire Roberta Giallo. Se noi andiamo avanti veramente una seconda ora potremmo anche giocarci uno stacchetto e tenere la puntata registrata per uno di questi jolly. Questa è la puntata in cui Cinzia Corda sta cantando in Piazza Maggiore, dunque noi siamo a casa e questa è la puntata di Cinzia Corda. Vorrei vedere il sole così grande. Io voglio recuperare da poterlo raggiungere così velocemente con un flash da Marco Roma. Buongiorno. Così. Per la chiusura. Grazie Marco. È partito. Ti dirò che a volte li recuperiamo. Le parole non servono a nulla, ma basta guardarti negli occhi e darti un bacio così. E il mio sorriso entrerà nel tuo cuore. Da Marco Roma, buongiorno. Molto romantico. Devo dire che questo è stato il migliore, forse. Io voglio capire una cosa. Ci sono tutta una serie di rubriche fisse che sono sparite dal palinsesto di Coxio Spaziale. Per esempio, c'era quella in cui i due minuti di Lolli. I due minuti di Lolli. Devi chiedere a Lolli. Devi scrivere al 333-180-94-94 giovedì dopo le 23. E lui ti risponderà: non ne volevo più un cazzo di fare due minuti di Lolli. Mi sono rotto il cazzo di fare il corso di fare. Se non vogliamo dire scurità in radio, cosa faceva? Come no, erano bellissimi. I due minuti di Lolli hanno una durata variabile. Variabile. Non lo so. Era una roba del genere. Comunque ci scrivono, perché leggo solo ora, che Amarcord credo sia il quarto o quinto disco, non il primo. Salutone. Grazie per averci, pensavo fosse il disco d'esordio, invece qualcuno ci ascolta e qualcuno ci scrive incredibilmente. Salutiamo intanto Giancarlo Norese, che lui di solito ci ascolta domani al martedì. E anche Arianna Arianna Castellazzi, anche lei ci ascolta di martedì. Salutiamo poi i nostri ogni ascoltatori tanto, del martedì. Ogni tanto ci ascolta anche Lorenzo Balbi, ma ogni tanto anche no. Però è tornato dalle vacanze, è tornato dalla Polonia, dove stava presentando Lorenzo Balbi, naturalmente è il direttore del Mambo, e aveva presentato una grande mostra di Giorgio Morandi in Polonia, a Varsavia, e allora adesso è tornato. Io lo so perché vedo la sua macchina parcheggiata di fronte al Mambo. Quindi sei seguito Lorenzo Balbi. Esatto, sappi che quando sei a Bologna, noi lo sappiamo. Occhio a come ti comporti. E c'è questo tempo polacco a Bologna. Diciamo che è colpa di Balbi, possiamo dirlo esplicitamente. Mentre invece Leonardo Santoli invece uno dei progetti futuri di Leonardo Santoli è di fare una collettiva a Brisighella. Tu hai una bandiera 1,50 m per 1 m verticale da esporre a Brisighella, per esempio? Cioè, se ce l'ho adesso qui sull'unghia? Sì, tipo no, in tasca. Qui, cioè, ora, tipo qui. No, in questa, No, però se, è come se ce l'avessi. È come se ce l'avessi. Mm. Che cosa vuole fare Leonardo Santoli? Sta organizzando una collettiva a Brisighella e serve una bandiera 150% in verticale. da mettere ma, in cioè, mostra. In forma di opera o opera d'arte, certo. Cioè deve essere un'opera entro quanto serve adesso? Ma fra fine agosto. Fine agosto, una bandiera. Vabbè insomma, se qualcuno lanciamo questa open lanciamo call, se qualcuno ha una bandiera se qualcuno verticale, ha una bandiera verticale 150%, 150% esatto, per cento. E vuole esporre a Brisighella deve prima delle cioè a 6 minuti di tempo per scrivere al 333 180 94 94, oppure volendo vabbè anche entro dopodomani può scrivere a coxospaziale@gmail.com. Cioè possiamo avere qualche dato in più sul contenuto tematico magari di questa cioè una bandiera qualsiasi. Cioè, un'opera su stoffa come uno stendardo, cioè sei tu che fai queste cose, no, ma infatti mi sta rompendo i maroni lui proprio per questo motivo, però, perché vorrebbe che tu facessi una bandiera che tu non hai, che io non ora, ho no perché io ce l'ho di tutti gli altri formati possibili immaginabili, ma non 150 per cento. Ma tu pensa, io sono sicura che Leonardo Santoli avrà proprio pensato, scelto le misure apposta per centrare quelle che tu non hai. Esatto, però magari ce le hai tu. Perché queste bandiere a casa? No, sull'unghia sinceramente non mi non lo so. Parla. A Brisighella, ma perché a Brisighella le bandiere vanno? Ah, vabbè, a proposito di c'è una certa futuri. Vaghezza in questo invito, vaghezza, non lo so, sì. È una certa vaghezza. Comunque, no, certo che abbiamo proprio un cazzo da dire comunque. No, ma infatti io volevo, allora stavamo in chiusura, siamo in chiusura. Comunque. I giorni del conto. No, perché siccome qui alle nostre spalle sentivamo dei rumori un po' inquietanti, allora mi veniva in mente quella scena iniziale dei tre giorni del conto dove c'è quello che si salva solo perché va a prendere le brioche per tutti e nel frattempo nell'ufficio in cui lui stava facendo non so quale tipo di praticantato esplode tutto strage. Okay. Mentre invece questa cosa questo un po' inquietato rumore inquietante non sono i pantottanta, stranamente, e quindi c'è il rischio che questo strazio si protragga per un'altra ora. Direi che il rischio lo possiamo abbastanza abbiamo la possibilità di concludere un po' in ritardo, abbiamo la possibilità questo... di concludere io un volevo po' lanciare almeno cioè, un tema impegnato non dai, possiamo lanciare lanciamo almeno un tema impegnato un tema almeno impegnato. Uno Alme- se lo Mi scrivo si... qua almeno un tema impegnato ma l'ha già scritto comunque almeno uno. No, perché mi è capitato sott'occhio oggi questo articolo che per la verità è vecchio, è del 22 maggio, quindi potevo leggerlo anche prima perché sarà partita tutta una sequela sicuramente di commenti e quindi nel frattempo sono successe delle cose, però è questo articolo di Cristian Cagliandro che dice la disillusione generale della cultura e il silenzio intorno ai drammi della guerra e in estrema sintesi ve lo sintetizzo. C'è scritto storia, non guerra, scusami. Della storia, scusa. Comunque, vabbè, la diciamo storia è intrisa di guerra. Diciamo perché se la storia fosse una storia di magnifiche sorti progressive, sì, ho fatto un po' una crasi, una sintesi per il pubblico, eccetera. Se la storia fosse rosea, forse non ci sarebbe questa disillusione. Perché arte e cultura non riescono a costruire un'azione concreta? Questa è una domanda per te, capito? Per me? La tua risposta. Perché devo arte e cultura non riescono a costruire un'azione concreta intorno alla violenza della storia e alla guerra a Gaza? Perché? Perché due non fa tre. Beh, mi sembra cioè, una risposta. Di ecco, se il livello è questo, la risposta ce la siamo già data, no? Però, perché? Perché, se avete voglia di risponderci, avete voglia di esatto. Rispondere. Potrebbero rispondere i nostri radioascoltatori al 333 180 94 94. Adesso facciamo sentire una sorta di mini, cioè finta sigla finale, perché poi ci sono le pubblicità delle 20 delle 21. Ah sì? Cavoli, che però non quindi, abbiamo intanto preparato. Che ci pensate, per cui... Intanto che ci pensate, qua va in onda una sigla finale onda, finta. Una finta che però finale, poi continua tutto abbiamo... lo strazio ancora per un'ora. Esatto. E poi dopo questa mini finta sigla finale, non ho capito cosa succede. No, in realtà, secondo me dovremmo alle pubblicità, okay, e poi? E poi intanto voi potete riflettere sulla risposta a questa domanda, sull'unico tema impegnato di tutta la trasmissione, forse anche delle 540 puntate, no, perché qualcuno mi ricordo che abbiamo anche fatto. Ci sono stati altri temi impegnati. Ci sono di stati sicuro. Alcuni temi impegnati. Che rilancio, perché arte e cultura non riescono a costruire un'azione concreta intorno alla violenza della storia. Io direi la violenza della storia, appunto, perché cioè Gaza è una delle tante guerre che, infatti, come dire, che purtroppo si palesano su questo pianeta. Io voglio rubarti la fonte delle informazioni. Quanto manca per questa sigla, no? Per regolarmi su... No, ma possiamo intanto... Tu vai, poi ti faccio... Ma io adesso aspettavo le domande, le risposte. Sul perché... Ebbene sì, siamo già qua, siamo già tornati, siamo già qua, c'è stato già un bianco radiofonico, abbastanza piccolo, perché insomma ero pronto, perché c'era un cambio alla regia, ma sì, no, giusto così, per no, vi volevo anche dire che è arrivata l'unica vera realtà, ovvero un pezzo di Tullo e i Rebel Hot che non beh abbiamo. Allora, visto che stiamo parlando appunto di ritorno del reale, mm-hmm. Mandala subito. Eccola qua, forse si sente, chissà. Sì. Che tu non sei qua, ma quando l'inverno ti prende nello stomaco di chi se ne va. Qualcun altro, un fatto che lui ancora non sa, e dormi tranquilla e serena, sognando che è lontano da te, perché l'unica vera realtà è il fatto che sei andata via. Come quando l'estate finisce e si entra in un'altra realtà. Guardi fuori, c'è il sole che tramonta questa sera, sarebbe stato bello avere ancora un margine di errore sopra il letto, ma ti giri come brezza del mattino, si spengono le luci, sogni fuori, se vince sempre il banco in un gioco a somma zero, si spengono le luci e sogni fuori. L'unica vera realtà è il fatto che sei andata già. Come quando l'estate finisce e si entra in un'altra realtà. L'unica vera realtà è il fatto che sei andata già, come quando l'estate finisce e si entra in un'altra realtà. Si spengono le luci e sogni fuori. Si spengono le luci e sogni fuori. Si spengono le luci e sogni fuori. Si spengono le luci e sogni fuori. Si spengono le luci e sogni fuori. Si spengono le luci e sogni fuori. Sogni fuori. Si spengono le luci, molto, molto bello, e molto sono bello. Fuori. Bella, vero? Bella, molto bella, sì. È romantica questa. Molto bella, mi ricorda molto Puccini. Puccini, esatto. È vero, in effetti un po' Puccini. Questo era Tullo e Rebel Hot, e loro suonano il 30 agosto in piazza Lucio Dalla. Per cui da non mancare andremo. Per cui anche questo 30 agosto sì, bisogna 30 ricordarsi agosto. Noi non saremo lì a ricordarvelo, neanche noi, perché neanche. Quando è che riprende Coxo Spaziale? Il lunedì successivo che sarà il 1 settembre, 2 giorni dopo. Hai capito? Proprio come Hogwarts, come la presa di servizio a scuola il 1 settembre. Adesso è così. Ma noi abbiamo chiesto a Tullo di venire. No, quella era per gli studenti il 1 settembre, ma qualcosa mi dice che non verrà perché comunque ripetiamo la domanda con cui vi abbiamo lasciato prima della canzone, cioè perché arte e cultura non riescono a costruire un'azione concreta intorno alla violenza della storia e alla guerra a Gaza, che è un tema estremamente interessante, molto perché interessante. Secondo me va a toccare le corde egoiche dell'individuo, sì. E soprattutto dell'individuo artista, perché di soggetti che fanno arte senza fare arte o comunque senza comunicare, secondo me ce ne sono tanti. C'è sempre una un certo manierismo, sì, egocentrico. Sì, sì. Che a volte poi si attacca anche in realtà a questi temi, perché. Ma spesso è strumentale. C'è anche una strumentalizzazione dei temi, e poi alla fine le ricadute. Sono, però non c'è una presa di posizione concreta. Io molto spesso trovo opere molto banali in questi temi, cioè che affrontano questi temi. Perché sono superficiali. Appunto, le affrontano in maniera molto superficiale, dunque io preferisco non affrontarli. No, non, però una cosa che potrebbe fare... Non conoscendo la realtà di quello che però una che cosa succede. Che si potrebbe fare è una presa di posizione collettiva. Mm-hmm. Io credo che ci sia stato, adesso dovrei ripercorrere tutta la... stavo guardando qui la rassegna, perché questo era un articolo del 22 maggio, mm-hmm. Che per chi è interessato ad approfondire, di Cristian Caliandro, che potete trovare su Art Tribune e leggere. Magari lo condividiamo anche questo sul magari blog. Magari lo condividiamo su Coxo Spaziale. Su Coxo Spaziale. Domani storie di Link. Mm-hmm. Esatto, storie di Link. Poi c'è stato un sequel, perché sono arrivate delle risposte a questa domanda, tanta disillusione sul sistema dell'arte, e questa delusione e consapevolezza della distanza che separa l'arte dalla realtà. Forse devo dire, impressione mia, che potrebbe essere anche tua, perché c'è stato un allontanamento, paradossalmente, anche se i temi impegnati magari circolano di più nelle opere anche a livello mainstream, però la mia sensazione è che ci fosse più impegno in passato. Sì, diciamo. Diciamo che nel 2025 forse probabilmente forse gli artisti si sono accorti che non contano un cazzo e dunque hanno smesso di rompere i maroni con la politica, forse. Sì. Cioè, anche no, perché si portavoce di messaggi politici, dici. Sì. Cioè, ma magari non che è comunque... detto che debbano essere per forza diretti, adesso io penso per esempio, non so, dico così una cosa, è veramente la prima che mi viene in mente, non è detto che sia la più significativa o che sia un esempio calzante, però penso per esempio al progetto Oreste, non è che avesse come obiettivo diretto una trasformazione, cioè una presa di posizione rispetto a un tema specifico, però proponeva una modalità dell'essere diversa da quella è quello che dovrebbe fare l'arte, quello che dovrebbe fare l'arte, cioè andare a fondo, ma per andare a fondo devi andare a fondo tu nel tuo essere individuo, certo. Cioè rientrare un attimo in contatto. No, il problema, secondo me, il problema di base è proprio un problema di comunicazione, nel senso che l'arte una viene... Una comunicazione interna, cioè proprio... Però l'arte c'è una adesso perdita viene di fruita su Instagram, e su Instagram la fruizione è veramente superficiale, no, però dunque... non la voglio buttare sui social. È una semplificazione questa che fa... Sì, sono d'accordo con Lisa. Non la voglio buttare sui social perché è parte di una realtà che esiste ed esiste da ormai un po' di tempo e non smetterà di esistere perché è un nuovo linguaggio. E comunque si e non è neanche più Instagram, è, mi dispiace per, le, per noi boomer. Però è TikTok ormai, sì. Cioè lì c'è tutto un altro linguaggio molto interessante. E comunque in sono dei media che permettono molto facilmente la divulgazione. Assolutamente. In maniera non tanto diversa poi dai media poi, tradizionali come la TV. Cioè, come qualsiasi cosa, l'utilizzo che se ne fa deve essere un utilizzo consapevole. La differenza è lì, cioè come... qualsiasi cosa ci deve essere consapevolezza, ci deve essere un pensiero critico, altrimenti c'è di tutto. Con o senza Instagram, cioè un pensiero superficiale rimane un pensiero superficiale, almeno sì, anche se lo comunichi a voce porta a porta, diciamo, esatto. Sarebbe comunque superficiale. O al bar. Esatto. Questo sfondo di graffite. E questo lo ASMR. Ho trovato una Faber Castell Jumbo bella. Grimp che non si capisce perché sia negli studi di Radio Città Fugito. Era qua che ti aspettava per poter dare anima al mio cuoricione. Esatto. Un tratteggio come si deve, come sentite. Cosa che io non produco. No. Almeno non qua. Non qua, in questi. Cioè, fai produrre ai tuoi studenti di anatomia. Sì, no, talvolta le agli anatomisti artistici. Gli anatomisti artistici fiorentini. Che potrebbe essere quasi cazzo, una infatti. United. Esatto. Anatomisti artistici United. Fatto ma io ti comunque... volevo chiedere. Scusa. No, vai pure. No, io ti volevo chiedere se conosci Mauro Zocchetta. Mauro Zocchetta, conosci? No, Zocchetta. Sai che mi cogli un attimo in preparata. È stato il mio professore di anatomia artistica. Ah, Zocchetta! Ah, no, Zocchetta. Sì, infatti mi diceva qualcosa. Accidenti se lo accidenti. Conosco. No, non lo conosco personalmente, ma conosco i suoi testi che talvolta uso. Io faccio fare almeno un'esercitazione sul che metodo meraviglia. Zocchetta. Io sono emozionata. Sono emozionata perché il metodo Zocchetta. Mauro Zocchetta che non da sarà... Da noi a Bologna, per orientare un attimo Pasquini, l'erede il suo consocio era Lolli, per darti un'idea, sì. Che non è Lolli Riccardo, che non è Riccardo Lolli che ho avuto il piacere di conoscere, sì. Ma soprattutto Zocchetta è stato il mio professore di anatomia artistica in triennale. Voglio vedere, hai conservato il book? Certo che ho conservato. Allora, la prossima volta che vengo in radio tu te li devi assolutamente. Però sì. Parliamo di reperti di un po' di anni fa e del triennio. Che quindi... però sono di un certo pregio perché il metodo Zocchetta è il metodo Zocchetta intanto è di una certa complessità. Quante ossa di bacino che ho disegnato. Io avevo Zanitti il primo anno di anatomia, che anche lui era fiorentino e ci faceva disegnare e dipingere ma Zocchetta ossa. Non faceva semplicemente disegnare, cioè aveva proprio un metodo quantitativo bene. Derivato esatto. Dalla scuola addirittura esatto. Dall'Unterweisung der Messung di Dürer. Hai capito? Sì. Non so se l'ho pronunciato bene, qualcuno sa il tedesco? Dürer, no. Non lo so io. No, ero più proprio preoccupata dell'Unterweisung. No, però Zocchetta ti fa capire proprio la volumetria degli oggetti, comprese le ossa e i muscoli. 380-94-94, se avete raccontateci delle vostre esperienze. Mauro Zocchetta, che non sarà sicuramente all'ascolto perché lavora a Venezia ma vive a Vicenza. Però adesso tu dove gli manderai che magari assolutamente l'ascolto, che magari lo conosci. Mandagli anche il minutaggio perché se deve affrontare tutta la un'ora e venti. Un'ora e venti di nulla assoluto. Prima di arrivare a lui magari si perde un attimo d'animo, okay? No, detto questo, noi oggi avevamo un ospite che un è Gianni ospite. Piemontese che però, non ci ha raccontato niente. Adesso no, io non mi piace ascoltare molto. È un ospite ascoltante. È l'ascoltatore, okay. L'ascoltatore è un ascoltatore silenzioso, okay. Ma ci dici cosa, per esempio, no, cosa però fai? Però almeno i progetti futuri me li devi dire, visto che c'hai sopravvivere quest'estate. No, anche il prossimo inverno. Ah, ok. Anche il prossimo inverno. Arrivare a fine mese. A fine anno. A fine anno è un obiettivo. Beh, 2025 sei ambizioso. Picchia forte. Io punto a finire la giornata, però. Esatto. In effetti, io punto finire la puntata intanto che è già sono già le 21:15. Innanzitutto ringraziamo Panta80 per non essere venuti salutiamo con tanto affetto averci dato l'opportunità. Ce l'abbiamo un'altra canzone da mettere o dobbiamo andare a pescare nella mia chiamata? Abbiamo Franco di Speciale Dolore. Vai con Franco perché veramente sono andato al banco e... Franco, sono andato al banco insieme al mio amico Franco, adesso sono stanco, sono andato a casa, tabula rasa, cosa faccio qua? Sono andato al Franco insieme al mio amico banco, adesso sono stanco, sono andato a casa e non mi passa nada. Quello che vuoi, se mi mangi le palle, vieni con noi. Se mi mangi la merda, faccio quello che vuoi. Se mi mangi le palle, vieni con noi. Se mi mangi la merda, faccio quello che vuoi. Se mangi le palle, vieni con noi. Se mi mangi la merda, faccio quello che vuoi. Mangi le palle, vieni con noi. Se mi mangi la merda, faccio quello che vuoi. Yeah. Se mi mangi la merda, faccio quello che vuoi. Se mangi le palle, vieni con noi. Se mi mangi la merda, faccio quello che vuoi. Se mangi le palle, vieni con noi. Se mi mangi la merda, faccio quello che vuoi. Se mangi le palle. Intanto costruire, perché stiamo parlando sempre, siamo rimasti all'argomento del prima di questo stacco musicale, che era il metodo anatomico di Lolli e Zocchetta, che sono stati due insegnanti di anatomia, due maestri molto diciamo declinati, con una declinazione dell'insegnamento anatomico proprio strettamente descrittivista, quindi anatomia descrittiva, perché adesso in anatomia ci sono varie, come dire, vari orientamenti, soprattutto a Bologna, ma hanno disdegnato completamente. È peggio di me lei. Elisa? Dicevamo io? Sì. No, era bellissimo, potevi continuare. Infatti Pasquini mi ha subito guardato felice perché infatti, c'era qualcuno che interrompeva. Ma io lo lascio andare di sottofondo nel frattempo. Dicevi, scusa. È l'insegnamento, perché hai un allieva. Hai un'allieva. Effettivamente mi dispiace per te, Elisa. Ma guarda, è andata così. Ognuno ha la sua croce. Ognuno ha il maestro, cioè, che si merita. Che direi che tra Zucchetta e Pasquini c'è, cioè, due mondi completamente opposti. Cioè, da una parte, no, il Rinascimento, dall'altra parte il caos più totale. No, la morte dell'arte, però. Ma che morte dell'arte. Vabbè, adesso apro poi dopo una parentesi anche su Pasquini, perché dobbiamo raccontare qualcosa. E i suoi libri? Io non voglio parlare dei progetti futuri di Pasquini, ma dei progetti passati. Ah, vedi? Ecco, dopo farò un inserto sui progetti passati di Pasquini. Un inserto sui progetti passati di Pasquini. Io invece vi proponevo di chiudere quando c'è la pubblicità delle 20:30. Facciamo così, no, delle 20:30. Facciamo così, delle 21:30. Quindi abbiamo ancora 10 minuti, anzi per la verità 9 minuti. Per chiudere tutti i fili che abbiamo aperto adesso. Il primo filo che chiudiamo subito è quella Lolli Zucchetta, perché Cinzia mi ha chiesto cosa vuol dire costruire, perché Lolli e Zucchetta avevano messo a punto un metodo, partendo poi dal Dürer, per disegnare le parti del corpo nella loro volumetria, ma erano una serie di indicazioni proprio che venivano date, che se tu le segui, capito? C'è proprio un vero e proprio metodo, per cui sei in grado, anche se magari non sei portatissimo, se ti metti con dedizione e applicazione, arrivi comunque a un risultato. Cioè, sì, ma non è sei in grado di disegnare... Cioè, partendo dallo scheletro con poi la costruzione dei muscoli e quant'altro, senza avere un modello di riferimento. Ok, dal bacino e dal cranio? No, vabbè, dal bacino. Il corpo, però il tutto bacino il corpo è partendo parte... dal bacino, perché, okay, perché poi il bacino c'è, cioè il plesso solare, che anche storicamente, esatto, insomma, ha una plesso valenza solare, anche simbolica. Per una questione di proporzioni? Solare. Per una questione di proporzioni? Plesso solare, il coxo, come il coxo sacrale, esatto, il coxo perché noi il coxo spaziale, ricordatevi che Fedra Boscaro voleva chiamare questa trasmissione coxo sacrale, capito? Abbiamo 5 minuti, cosa Lolli Zucchetta l'abbiamo chiusa. Poi era rimasto Cagliandro, perché abbiamo lasciato in sospesa la domanda del secolo, cioè la domanda su arte, delusione e consapevolezza. E volevo leggervi, diciamo, il sequel, no? Che lui comunque riassume in un articolo poi successivo. Lo leggo perché sono andati via tutti. Ne approfitto. Arte e realtà, delusione e consapevolezza. La domanda era perché l'arte e la cultura non riescono a fermare i drammi della storia. E soprattutto oggi, perché non li hanno mai fermati, a dire la verità. Tu sei su quel paragrafo. Io sono su quel paragrafo. Mi aveva colpito quest'altro. L'irrilevanza del mondo della cultura. Allora leggi tu. Vai. Siamo rilevanti e contenti, soddisfatti di esserlo, è così? Oppure, non so onestamente che cosa sia peggio, siamo divenuti talmente indifferenti da convincerci che tutto ciò che ci cade intorno e di fronte non ci riguardi in alcun modo, non tocchi la nostra bolla di relativo benessere e di miseri privilegi, e quindi possiamo tranquillamente continuare a vivere per conto nostro, a occuparci delle nostre faccende, a ignorare il resto, perché anche dei bambini molto piccoli capiscono che non funziona in questo modo, capiscono che la scelta del silenzio, di rimanere a vedere come va a finire, è tragica, ha delle conseguenze molto pesanti e anche molto dirette su di noi, su chi siamo e su chi saremo, sulla nostra situazione e condizione, e non porta a nulla, nulla di buono. Beh, in effetti non porsi delle domande e non intervenire e non... No, ma diciamo che c'è un po' di sicuramente di disillusione e senso di impotenza, perché adesso, al di là della questione cultura e arte e quale debba essere, come dire, il ruolo dell'arte, e cosa ha scritto Pasquini? Sono andato al banco insieme al mio amico Franco. Ok, vabbè, evento importantissimo. Dicevamo a parte il ruolo dell'arte, che cioè si aprirebbe un tema di 14 puntate per 14 puntate, perché cioè, ovviamente che potremmo fare durante agosto. Però non le facciamo ascoltare, cioè le facciamo, ma non si può perché non c'è la regia. In un gruppo WhatsApp privato, esatto, facciamo un gruppo. Una volta Pasquini aveva lanciato questa idea, facciamo una puntata tutta così su, e poi tutto non siamo su WhatsApp e poi non siamo riusciti a farla. Esatto. Ah, no, ci siamo persi. Però non potremmo aprire un canale Telegram. Potremmo aprire un canale Telegram dove Coxo Spaziale vi aggiorna settimanalmente o giornalmente. Esatto. Dove andiamo al banco col nostro amico Franco. Dove andiamo al banco? Perché sì. Oggi sono stanco. Perché oggi sono stanco. E così abbiamo buttato abbiamo in vacca, mandato, come al solito, abbiamo buttato in vacca anche il tema impegnato della puntata di oggi. Non ce l'ha anche questa volta. Come direbbe Danilo Masotti, non è un caso che Cristian Cagliando non è ancora venuta a Coxo Spaziale, probabilmente non verrà mai. No, a parte che non risiede a Bologna e quindi credo che non gli sia neanche comodissimo proprio venire fin qua. Penso anch'io. E poi penso che ci rimarrebbe male di tutto questo cazzeggio. Sono andato a casa, striscia di gatto. Ok, bene, lasciamo perdere. No, però devo dire che mi è arrivata la pubblicità, sta per apparire la pubblicità. Io vedo un RCF qui. Allora parliamo un attimo dei progetti passati. No, no, ci sono, c'è, c'è, c'è. La mia c'è 1229 qua. Ma infatti ci siamo quasi. Come facciamo? Ci salutiamo così? Ci salutiamo così, interrompendo tutto di colpo. Dopo esserci sovrapposti gli uni agli altri, cosa che i nostri ascoltatori odiano. Potresti dire con questo basso livello e poi tirare su. Ma sai che non l'ho inserito? Ah, non ce l'ha. Vabbè, lo diciamo tutti noi in coro, dai, pronti. Uno, due, facciamo al tre, diciamo con questo basso livello. Ascoltiamo la sigla. Al mio tre. Ok. Uno. Questo era Coxo Spaziale. Due, tre. Con questo basso livello di radiofonia ascoltiamo la sigla. Mi sono impappinato che però no hai messo vomito grande sempre non ci siamo capiti ma pensa